Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Cosa ti portò a ballare? Per via di mia sorella. Era la femmina. Così mia mamma decise che doveva fare lei la scuola di danza. E ogni sabato mia madre ce la portava. Ogni tanto mi portavano con loro. Quanti anni avevi? 4, 5. Stavo lì tutto eccitato e... I'm watching Cisco put a pat. Said, I can do that. I can do that. In A Chorus Line, cult musical americano di metà anni 70, decine di giovani pieni di speranze si presentano alle audizioni per ballerini di fila in un nuovo musical di Broadway. Dopo varie fasi di massacranti selezioni, ne restano in lizza 16, tutti disperatamente alla ricerca di un lavoro. Ognuno di loro rivela, accompagnandosi con il ballo, un passato difficile, a volte traumatico, ma in tutti emerge la medesima passione per la danza che sempre è riuscita ad aiutarli a superare le difficoltà della vita. La musica e la danza come metafora del significato dell'esistenza. La leggendaria ballerina americana Isadora Duncan prova a spiegarlo con queste intense parole. Ascoltate la musica con l'anima. Non sentite un essere interiore che vi si risveglia dentro. È per lui che la testa vi si drizza, che le braccia si sollevano, che camminate lentamente verso la luce. E questo risveglio è il primo passo della danza come la concepisco io. Tersicore, la musa greca della danza, solita accompagnare l'incedere delle danzatrici con il suono di una lira, nel corso dei secoli ha visto il suo mito diramarsi nelle più disparate declinazioni. I due rami per eccellenza della danza classica e moderna, le derivazioni latinoamericane come la rumba, il mambo e il cha-cha-cha, la salsa, il tango e la lambada, gli intramontabili balli a tempo ternario come il valzer e la mazurka, o gli scatenati boogie-woogie, charleston e rock and roll. E chi di questi tempi in ogni strada o piazza del mondo non si è fermato almeno una volta ad osservare meravigliato le improvvisazioni scatenate da un gruppo di street dancer? Oggi a Destini Incrociati ci lasceremo andare al ritmo e alle suggestioni della danza moderna e parleremo di quel ritmico movimento, di quel plastico senso dello spazio e fusione tra anima e corpo che fin dai primordi dell'umanità si è impossessato dell'uomo come uno spirito di un posseduto. Kurt Sachs, noto storico della musica di metà Novecento, ne descrive la tavica suggestione con queste illuminanti parole. La danza è la madre delle arti, vive ugualmente nel tempo e nello spazio. In essa creatore e creazione, opera e artista, fanno un tutt'uno. Danzando, l'uomo ricrea queste cose con il suo stesso corpo, ancora prima di affidare alla materia, alla parola, il risultato della sua esperienza. Nella danza i confini tra corpo e anima, tra espressione libera dei sentimenti, finalità utilitaria, tra socialità e individualismo, lotta e rappresentazione scenica, si annullano. Nessuna arte ha confini così ampi. Nella sua essenza, altro non è che la vita innalzata a un grado più elevato. Ma quando nella civiltà superiore essa diviene arte, nel senso più stretto del termine, e diviene oggetto di spettacolo, il suo universale potere si spezza, si frantuma. Ma ciascuna civiltà racchiude ancora in sé, come germe spirituale, la nozione sublime che danza è ogni movimento soprannaturale e sovraumano. La danza come movimento sovrumano e soprannaturale, ha ricordato Kurt Sachs, e sono due termini che ben si addicono anche a due ballerini e coreografi eccezionali, protagonisti della nostra storia assieme alla loro musa e che della danza hanno rivisitato le gestualità attraverso un'inventiva eccezionale, ricreandola secondo codici e criteri inusuali e innovativi. Il primo dei due, nato nel 1949 in una sperduta fattoria a nord del Vermont, negli Stati Uniti, si chiama Moses Pendleton. Moses Pendleton. I am Moses. Thank you. I've waited my entire life for just the right outfit to say that in. Sono cresciuto in una fattoria nel nord-est del regno del Vermont, sapendo che avrei seguito mio padre nel lavoro in campagna. Lui aveva un sogno, creare la perfetta vacca frisona Holstein, e la sua passione divenne la mia. Il nostro desiderio di riuscirci era così grande al punto che mio padre trovò perfettamente naturale ritirarmi dalla scuola. In ogni momento una delle nostre mucche doveva essere vista da un veterinario perché stava partorendo un vitellino o, per qualsiasi altro evento, riguardasse le vacche, noi comunque dovevamo essere presenti. Io ero il suo figlio preferito e ero pronto a fare per sempre quel tipo di vita fino a quando, in un caldissimo giorno di luglio, lui si tolse la vita. E io avevo solo 12 anni. Pochi anni dopo mia madre mi mandò a Mount Hood, in Oregon, per imparare a sciare e fare gare insieme al team austriaco. E fu così che i miei due principali allenatori divennero per me due secondi padri. Mi insegnarono a sfidare le leggi della gravità, il brivido di scendere a rotta di collo da una pista, a volare come un'aquila nell'aria rarefatta, spronandomi in continuazione e dicendomi: «Moses, osare, devi osare!» Do you dare? Osare sempre, questo è il mantra che accompagna l'intera vita di Moses, che nel 1967 vince il campionato di sci di fondo del Vermont, poco prima di incorrere in una grave frattura che lo costringe a lasciare l'attività agonistica. Iscritto alla Dartmouth per studiare letteratura inglese, è nello splendido college immerso nei boschi del New Hampshire che Moses fa il primo decisivo incontro della sua vita. Deciso a rafforzare la gamba fratturata, partecipa al corso di danza moderna tenuto da Alison Becker Chase, ballerina e coreografa, futura fondatrice della rinomata compagnia di ballo Apogee Arts. Per il flessuoso e atletico ragazzo di campagna è una folgorazione, ma non è il solo. Alison Chase si rende infatti conto molto presto di avere a che fare con una personalità fuori dal comune e vede in quel ventunenne dal corpo muscoloso e temprato dalle gare agonistiche un laboratorio umano grazie al quale sperimentare nuove idee. Ma non è tutto. Il ragazzo è in possesso di un fortissimo carisma e presto il corso si riempie di ragazzi incuriositi e talentuosi, pronti a seguire lui e Alison in quello che sarebbe diventato presto un nuovo modo di pensare e fare danza. Ho subito capito che non avrei potuto insegnare a quei ragazzi semplicemente a ballare, ma che dovevo anche iniziare a introdurre elementi di improvvisazione e di coreografia. Erano di un'incredibile freschezza, tabule rase con le quali creare cose nuove ogni giorno, sperimentare, osare, portare al limite quelle menti e quei corpi. Mescolammo tutto: danza moderna, ginnastica, mimo, acrobazie e persino l'apparente scompostezza della commedia slapstick. Ed era Moses a guidare tutti verso i loro limiti, grazie alla sua fisicità fuori dal comune e a una feroce determinazione. Gli altri lo soprannominarono il muscolo vivente. Ma non tutti reggono allo sforzo e alla debordante personalità di Pendleton, che fin da allora rivela di non essere uomo di mezze misure. Si ama o si odia, prendere o lasciare. Chi resta naturalmente lo segue, e tra questi Jonathan Walker, suo compagno e amico al Dartmouth, con il quale Moses fonda una compagnia di ballo che prende il curioso nome da un fungo dalle forme cangianti, amante del sole, che inarrestabile genera colonie, rivelando al microscopio evoluzioni sorprendenti. Qualcosa in cui si riconoscono perfettamente Moses e i suoi adepti. Nasce così la Pilobolus Dance Company. My next guests are a world-renowned dance company who are performing here in New York City at the Joyce Theater through July 26th. Please welcome Pilobolus. Lo stesso Moses Pendleton racconta con affetto e senso dell'umorismo quei pionieristici giorni a Dartmouth a un'estasiata platea di studenti della University of the Arts di Philadelphia nel 2010. At that time, Dartmouth was still an all-male school. A quei tempi Dartmouth era ancora un college di soli uomini, ma avevano chiamato una giovane e affascinante donna, da poco laureata alla UCLA per insegnare danza. Il nome era Alison Chase, e io pensai che iscrivermi al suo corso di danza moderna rappresentava un'opportunità per rafforzare la gamba che mi ero rotto sciando qualche tempo prima. Così ci andai e capii come prima cosa che Alison era decisamente più carina del mio allenatore di discesa, Hal. Quindi non ebbi più dubbi e mi iscrissi. La classe era piena di atleti del college che venivano in jeans e di nascosto ai genitori perché questi credevano che veri uomini non dovessero danzare e sicuramente non tra di loro. Ma la verità è che in quella classe c'erano dei veri atleti e imparammo a trasformare l'atletismo in estetismo. E anche se nessuno di noi si era mai allenato per quello, ognuno si appoggiò all'altro per un aiuto reciproco e iniziammo così a vedere i risultati di quelle che potrei definire sculture umane in movimento. speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess I'm still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream. But now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? I don't know which. Dartmouth, New Hampshire, 1971. Moses Pendleton e Jonathan Walken, assieme alla loro insegnante Alison Chase e ad altri compagni di corso, fondano i Pilobolus, una compagnia di danza sperimentale destinata a essere un punto di riferimento e a influenzare il mondo della danza moderna per i 30 anni seguenti. Una forma di arte cinetica, scriverà la nota critica Anna Kisselgoff sulle pagine di The Times in quei primi anni della compagnia. Una stupefacente miscela di fisicità priva di timori, umorismo, inventiva e disinvoltura. Gag teatrali spiritose, raggruppamenti di corpi in forme e movimenti tra loro interconnessi e tesi verso quella che si potrebbe definire arte in movimento. Grazie alle prime esibizioni pubbliche e alle attenzioni della stampa, il gruppo dei Pilobolus è infatti notato dal tour manager di Frank Zappa, il quale si convince che quella strana compagnia di ballo può essere l'apertura ideale per un concerto dei Mothers of Invention, la band californiana nata alla fine degli anni 60 sulle ceneri dei Soul Giants, che ha come leader il chitarrista e compositore originario di Baltimora, capace di portare i suoi compagni a vendere milioni di dischi e a esibirsi in tutto il mondo con performance live stupefacenti. Un teatrante bizzarro, dirà Frank Zappa di Moses Pendleton dopo averlo visto ballare. E fa un certo effetto sentirlo dire dal musicista probabilmente più poliedrico e avanguardista della sua generazione. E suona come una investitura. Nel corso degli anni 70, i Pilobolus, capitanati da Moses, conoscono la loro consacrazione culminante nel 1977 in uno strabiliante spettacolo a Broadway. Per Pendleton, tuttavia, alla fine del decennio, si apre improvvisa una nuova opportunità. Gli organizzatori dei Giochi Olimpici Invernali di Lake Placid del 1980 lo contattano per proporgli un numero da esibire durante la cerimonia di chiusura dei giochi. Soltanto lui, senza Pilobolus, l'ex campione di sci non può rifiutare un'occasione che riunisce in un unico evento le due grandi passioni della sua vita e mette tutto se stesso nella realizzazione dello show, al punto da dare un nome proprio al personaggio che rappresenterà. Una sorta di Charlot vestito di bianco, con occhiali scuri, paglietta e un bastoncino dalle movenze molto lente. Lo contrae da Moses, il suo nome, e Mixture, quello di un alimento per vitelli, reminiscenza dei suoi trascorsi da ragazzo di fattoria. Nel suggestivo assolo al Rallenti, il mondo conosce per la prima volta Momix, perfetto alter dell'ego senza limiti di Moses Pendleton. Con enorme piacere che vi presento Moses Pendleton e Cinzia Quinn. Vieni Cinzia, vieni. Qua. Io vorrei che voi... Vabbè, non c'è bisogno neanche che ve lo dico, scusate, ecco. Grazie Moses e il suo balletto, grazie. In quella magica gelida notte di febbraio all'interno del Lake Placid Pedestrian Stadium, Moses Pendleton chiude un cerchio del destino proprio laddove si celebrano i cerchi iridati dei Giochi Olimpici. Lui, ex sciatore, si esibisce nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, alle quali, senza l'infortunio alla gamba che lo ha portato a scegliere la danza, avrebbe potuto partecipare. Ma il destino ora lo ripaga con un'ovazione del pubblico. Da quella sera la sua carriera ha davvero inizio e quel nome, così veloce ed elastico, si trasforma presto nel marchio di fabbrica di una delle compagnie di danza più note, osservate, ammirate del mondo. Ne parla con queste parole 30 anni dopo quella notte Julio Alvarez, attuale general manager dei Momix. Il successo imprenditoriale dei Momix è il pubblico che li ama. No, non ci sono segreti, il successo dello spettacolo è il risultato dell'amore del pubblico, dell'interesse del pubblico per quel tipo di spettacoli, o di quel tipo o di quello spettacolo preciso, no? Ma no, si lavora sempre per tutti gli spettacoli intensamente, per promuoverlo, per farlo conoscere, per divulgarlo, però chi decide alla fine è il pubblico. Un pubblico che fin dalla sua prima apparizione di Momix Pendleton a Lake Placid resta rapito dai giocosi virtuosismi ginnici, dalle invenzioni fantasiose di quella danza allegra e surreale. Ma non sono solo gli spettatori di Mezzomondo a restare affascinati dal virtuosistico talento dei Momix. Mentre nei primi anni Ottanta Pendleton mette a punto i primi spettacoli della compagnia, un promettente ballerino nato a Los Angeles è a New York per perfezionarsi nella compagnia di ballo dei coreografi Alvin Ailey e Robert Joffrey. Ha solo 24 anni, quando si rende conto che qualcosa nel mondo della danza sta cambiando radicalmente, e ciò che ha visto nascere nella notte di Lake Placid è esattamente ciò che vuole anche lui: mettere il suo corpo al servizio della danza. Quel corpo appartiene al secondo protagonista di oggi, Daniel Esrolow. Daniel Esrolow. Io, secondo me, tutti ballano, tutti qua ballano, tutte le persone sul mondo ballano, tutti loro dietro le telecamere ballano, ma solo una libertà di tua mente di proprio ballare fisicamente, mi sembra molto importante per la nostra società, mondo, di spostare il corpo, di muoversi il corpo. A questo punto io ti dico, guarda, vai a fai contatto con le sentimenti essenziali sul tuo motivazione di vivere, e così si comincerà a ballare. Per cui anche per ballerini, che ballerini è molto bloccato, loro sono, perché loro fanno anni di lezioni, anni di rigoroso, di fare proprio sbarro o qualcos'altro, così si blocca tutti i sentimenti, invece alla fine danza come recitazione, come canto, come qualsiasi cosa, come amore, una scambia di emozioni, una scambia di esprimersi, e questo deve essere sempre, la porta deve essere sempre aperta. Destini incrociati. A Destini incrociati oggi balliamo sul mondo della danza, muovendoci plastici e dinamici nelle vite di due ballerini e coreografi non comuni, capaci nel corso degli anni 80 e 90 di reinventare la danza moderna. Moses Pendleton, geniale e magnetico fondatore dei Momix, e Daniel Esrolow, il loro maggior interprete e rappresentante. Del primo abbiamo conosciuto la forza di volontà e la grande capacità inventiva, del secondo andiamo a conoscere il purissimo talento. Sono stato un punto della mia vita quando ho visto tantissime persone, tantissima energia per essere straordinario. Per cui la straordinarietà era la possibilità di essere normale. Ma c'è davvero poco di normale o di comune nella vita di questo eterno ragazzo californiano, che prossimo quest'anno a compiere 56 anni, ne dimostra almeno 10 in meno, conservando un fisico straordinario e flessuoso, anche se ormai votato quasi esclusivamente alle fatiche della regia coreografica. Medico mancato a Berkeley, si innamora molto presto della danza, alla quale si avvicina fin dall'inizio in modo non convenzionale, seguendo nella stessa università californiana un corso di tecnica Graham, dal nome della leggendaria ballerina americana considerata unanimemente la madrina della danza moderna. Parliamo di Martha Graham, della quale ascoltiamo le parole tratte da un'intervista rilasciata qualche anno prima della sua scomparsa, avvenuta nel 1991, all'età di 97 anni. La danza è l'unico linguaggio spontaneo, capace di comunicare le emozioni umane in tutta la loro immediatezza. Attraverso movimenti sciolti e convulsi, l'uomo può finalmente esprimersi liberamente, rompendo le catene di una società univocamente fondata sulla verbalità. Con Martha Graham, la danza diventa vera e propria arte corporea, che si distacca dalla lunga tradizione accademica del balletto classico, da sempre subordinato alla musica e al testo. Nelle sue sperimentazioni la Graham libera i corpi dei ballerini con coreografie volte a riscoprire quello che il corpo può fare esplorando i suoi limiti. Non più costretti ad adattare la propria fisionomia alle sclerotiche posture della tradizione classica. Al contrario, è la modern dance ad adattarsi alla conformità fisica e alle caratteristiche dei singoli danzatori. La sua tecnica è basata sulla respirazione, sul movimento istintivo degli interpreti e la scarpetta a punta scompare per lasciare il posto al contatto dei piedi nudi con le tavole del palcoscenico per ritrovare un contatto più profondo e immediato con la terra. Daniel Azarolow è alla ricerca di tutto questo, corrispondendo in pieno alla sua sensibilità e alle sue aspirazioni di uomo libero in una libera danza. Gli americani sono puritanissimo, loro arrivato come puritani, loro c'è questo. Poi c'è tantissime contraddizioni in America, per cui c'è un mondo scuro, scurissimo, poi c'è un mondo molto così. Mi sembra che quando noi lo prende se stesso come la capacità siamo sbagliati, perché non c'è nulla scritto, non c'è nulla su questo mondo, non c'è George Bush, non c'è Berlusconi, non c'è Prodi, non c'è nessuno scritto su questo mondo che questo è il modo di fare, per cui tutti noi deve essere liberi di cambiamenti, e questa è una cosa forse, si sta parlando in generale. Padre canadese, madre israeliana, nonni russi, Daniel porta con sé i tratti di una bellezza che amalgama diversi esotismi e possiede il corpo di un angelo, lo sguardo di un esule romantico, la dolce malinconia di un poeta. Da sempre la sua è una visione della vita e della danza che si rifà al virtuosismo e all'energia della sua sensualità. Per Daniel, lo straordinario diviene regola di vita, l'imperativo da perseguire ovunque e sempre, ma soprattutto nel mondo dello spettacolo e dell'entertainment, votati come spesso sono alla ricerca dello strano, dell'esotico. Dopo il periodo californiano, nel 1976, Azarolow sbarca a New York e nei 10 anni successivi collabora con le compagnie dei coreografi americani più noti del periodo, tra cui Lar Lubovic e Paul Taylor. Ma è l'incontro con i Momix e i loro guru a fargli capire qual è la sua strada. In Pendleton, Daniel vede il maestro definitivo, l'uomo che sta tracciando il percorso verso il quale la danza moderna di fine secolo sta evolvendo. Il coreografo italiano Emilio Calcagno ne parla in questo modo. L'Italia è l'unico paese dove ancora confonde il moderno con la danza jazz, con il modern jazz. Sono cose. Il moderno è solamente quello che ha preceduto la danza contemporanea, cioè si chiamava moderno le tecniche che sono nate come Graham, come Nicolais, come Cunningham, e poi effettivamente a poco si è sviluppata una danza contemporanea. Contemporanea significa di oggi, quindi bisogna fare attenzione con la terminologia. Rispetto ai principi di base della danza contemporanea, che sono il lavoro al suolo, il lavoro del peso, la danza classica ha portato più che altro una elevazione al ballerino, un'elevazione che è data dai salti, è data dalle punte. La danza contemporanea ha fatto innanzitutto un lavoro piuttosto basso, un rapporto di centro, un rapporto di fuori asse, cosa che il classico non ha, quindi sono delle cose che rispetto e che a me piacciono lavorare, la velocità e il senso dello spazio. Abbiamo anche torto con la danza contemporanea il fatto di lavorare frontalmente, che è proprio dato alla danza classica, e quindi la danza contemporanea utilizza lo spazio in modo diverso, i tempi in modo diverso. Moses Pendleton e Daniel Azarolow non potevano che incontrarsi. E come i pianeti e le loro lune, i centri di gravità di queste due straripanti personalità si attraggono e completano. Tipi mercuriali e perennemente ispirati, entrambi hanno fatto del loro corpo un tempio e della loro passione un laboratorio permanente di idee, di stili, di innovazione e a volte di sconcertante trasgressione, come avviene in uno dei primi spettacoli che i due rappresentano a Woodstock nei primi anni Ottanta. Lo ricorda lo stesso Pendleton con queste parole. Mi ricordo molto bene di quello show dei Momix e dopo tanti anni ancora mi elettrizza. Abbiamo danzato insieme nel primissimo spettacolo all'inizio degli anni 80 sull'immenso prato di Woodstock. Ci siamo divertiti a scandalizzare il pubblico. Improvvisavamo nudi in scena guidando la Harley Davidson di Daniel. Eravamo soli giri e terrorizzati dalla critica. Per addolcirla abbiamo servito fiumi di champagne. Tutto molto dada, molto trasgressivo ed elettrizzante. Ironia sfrenata e irriverente, fusione di danza e sport teatrale, acrobatica, illusionismo e ritmi travolgenti sono gli ingredienti principali di questi primi Momix potenziati dalla classe e vitalità di Daniel Ezralo, che fin dagli esordi riescono a riempire ogni singola poltrona dei teatri, anche per più giorni consecutivi. Nei primi anni Ottanta gli spettacoli si susseguono senza sosta di rappresentazione inventiva. E sì, il Teatrino delle Ombre nel 1982. Kiva dell'84 con volteggi sugli sci, Medusa e Circle Walker datati 1985 con acrobazia in una struttura rotante, e a seguire nel corso della seconda metà degli anni 80 Kiss of Spider-Woman, Preface to Previews, Venus Envy e il suggestivo Stabat Mater tutto danzato sui trampoli, Elva su musica di Elvis Presley e molti altri entrati a pieno diritto nella storia dei Momix e della danza moderna. Come posso dire? I Momix sono nati come esperimento alla Duchamp per costruire degli eventi più simili ai balletti istantanei dei dadaisti che non a delle coreografie vere e proprie. Abbiamo insegnato al mondo intero che la danza può essere divertente, simpaticamente irriverente, giocata sulle immagini e non racchiusa in esse. Inoltre danzare per me è sempre stato soprattutto giocare come un bambino, cosa che ogni giorno mi ricorda la mia bambina. Nonostante l'incastro di corpi e di perfetti meccanismi scenici, le personalità di Pendleton ed Ezralo restano comunque ben distinte. Moses ha una visione della vita che a più riprese lo avvicina a mondi alternativi quali la Sexual Freedom League e gli Hare Krishna. Odia viaggiare, nonostante il lavoro lo porti ovunque nel mondo, ed elegge a dimora un'enorme casa vittoriana nel Vermont, circondata da campi e natura, dove alleva mucche e coltiva girasoli. Daniel, all'opposto, è totalmente votato al perfezionismo di corpo e movimenti, come lo è all'instancabile attività di showman che lo porta presto a scindere la sua attività di coreografo e ballerino da quella dei Momix. Sente che il gruppo di Pendleton non gli basta per sviluppare ogni idea che nasce dalla sua straripante creatività. Assieme a David Parsons, ballerino e amico di sempre, fonda ISO, acronimo per I'm So Optimistic, gruppo di danza che unisce al talento artistico uno straordinario virtuosismo tecnico e acrobatico e con il quale parte per una tournée mondiale. Anche se non possiamo vederli, vale la pena percepirne le ritmiche e gestualità nella memorabile coreografia costruita da Ezralo per Psycho Killer, Day the Bobs. Destini incrociati. A Destini incrociati, Moses Pendleton e Daniel Ezralo, i due grandi innovatori della danza contemporanea di fine Novecento, si sono incontrati, hanno ballato e creato assieme alcune delle coreografie più originali e applaudite degli ultimi 30 anni. Ora, alla fine degli anni Ottanta, le loro strade si sono temporaneamente divise. Mentre Ezralo parte per una tournée in tutto il mondo con la compagnia di ballo fondata assieme a David Parsons, Pendleton sceglie la strada dell'understatement, assumendo uno stile di vita che insieme cultura pop, filosofia hippie e una sorta di laica religione della natura. La mente è un altro muscolo. Il cervello è un muscolo che devi esercitare come le gambe. Io faccio funzionare la mia mente per quanto posso e non penso che sia una cosa eccezionale. Non c'è assolutamente intelligenza in questo. Cammino, passeggio per ore e non appena comincio a usare il mio corpo, la mia mente diventa più libera. Così, spesso, mentre ascolto la musica che mi interessa per il nuovo show, vado in bicicletta con i pantaloncini da ciclista, le ginocchiere, il berretto alla rovescia e gli auricolari. E pedalo per un'ora mentre il sole tramonta. Al termine, dopo una seconda doccia, corro al terzo piano e mi godo per un momento un bicchiere di buon Chianti. Un appartamento a New York ci costringerebbe a essere più razionali, efficienti. Ci costringerebbe a tirare su tutto il nostro passato, pigiarlo nelle borse, stiparlo nei bauli e abbandonarlo in uno stanzino. Qui invece non ci sono confini, barriere. I libri non sono sugli scaffali, ma per terra, aperti. Qui tutto è libero. Ogni cosa vive, respira e si muove. Mentre Moses nutre lo spirito e si prende cura del corpo nel suo eremo del Vermont, Daniel Ezralow, anno dopo anno, diviene sempre più un cittadino del mondo. Teatro, cinema, televisione, musica, moda, sport, pubblicità. Non c'è espressione dell'arte del movimento e in generale della comunicazione visiva che non veda coinvolto il suo straordinario talento. Nel 1990 anche l'Italia lo scopre e se ne innamora ricambiata. Nel 1991 è al Maggio Danza Fiorentino con Alessandra Ferri nella performance White Man's Leap e l'anno dopo firma le coreografie di Ulisse e la balena bianca di Vittorio Gassman. Il tempo di vincere un premio Emmy in America per le coreografie della 70esima edizione dei premi Oscar ed eccolo tornare nel bel paese, di cui ormai parla molto bene la lingua, per firmare quelle del musical Tosca Amore Disperato di Lucio Dalla. Verranno poi le coreografie per Amici e per il Festival di Sanremo, per il quale è stato confermato anche per l'edizione del 2012. L'Italia diviene a tutti gli effetti la sua seconda patria. A certi punti si sente un posto dove si può liberarsi, magari in campagna, magari su strada, a Corso Vittorio Emanuele, non lo so, magari a Buenos Aires, qua a Milano, ma ognuno c'è il suo posto dove si può liberarsi. Io l'ho trovata in Italia quando proprio atterrare con l'aereo. Mi rilassa, non so perché, veramente non lo so. Ma le anime belle e gemelle dei due folletti della danza moderna non possono restare separate a lungo. Alla fine degli anni 90, grazie all'originale intuizione del produttore teatrale milanese Antonio Gnecchi, Moses e Daniel, assieme a David Parsons, si ritrovano per ideare e dirigere Airos, fantastico spettacolo di corpi volteggianti nello spazio per sfidare ogni legge fisica. Perfette e flessibili sculture colte nell'attimo supremo di staccarsi da terra e conquistare la leggerezza del volo. Un viaggio attraverso le più incredibili e impensabili possibilità fisiche e atletiche dell'uomo. L'idea di Gnecchi è quella di utilizzare ginnasti di straordinario livello tecnico, affidandoli alla guida di tre coreografi di fama internazionale per realizzare uno spettacolo in cui fondere humor, sensualità, sperimentazione e potenza fisica. Prende contatto con la Federazione Rumena di Ginnastica Artistica e sceglie i suoi migliori atleti, tutti ginnasti olimpionici ancora nel pieno della loro attività sportiva, per poi affidarli alle surreali fantasie coreografiche dei tre amici. Il risultato finale è una scenografia impalpabile fatta di sole luci e proiezioni. Unici protagonisti gli atleti, le loro figure perfette, cariche di forza, equilibrio e armonia. Corpi reinventati, con il linguaggio eterno e atavico della danza. L'idea è nata del nostro produttore e agente, Antonio Gnecchi, che c'è l'idea di fare un nuovo spettacolo, ha chiesto ma come fare? Ma prova ginnastica. Lui ha chiamato me e ha detto cosa pensa? Sì, poi ha chiamato Moses, poi ha chiamato David. 20 anni fa noi eravamo molto amici, e di questi anni separati, differenti. Ma ha pensato, bello di essere una bella opportunità di riuniti noi su questo nuovo spettacolo con nuovi corpi di ginnastica. Dopo Airos, le strade di Moses e Daniel tornano a dividersi e poi di nuovo a ricongiungersi in un ideale incrocio di destini danzanti, per un progetto ideato e commissionato da una celebre casa di cosmetici. Uno spettacolo liberamente ispirato ai capelli, intesi come onde in movimento e come espressione di un linguaggio non verbale, simbolo di bellezza, di forza, di seduzione. La stessa seduzione che da più di 30 anni i due maestri del balletto contemporaneo esercitano su milioni di spettatori ammirati dalla forza attrattiva di un corpo danzante. You remind me of the babe.